c'è qualcuno in ascolto? Cicù, cicù, canale 10. C'è qualcuno in ascolto? Davvero? Sì, a vero, lui. E lo vedi, Piazza Italia, con quel maiacco di ginco. Sì, perché tu pure lo usai. Sta attento che quello vede le casse buccate. Guarda il telefono, Luca. Adesso guarda. Cosa va a vedere il telefono? Aspetta un attimo. Che avevo sbagliato. Luca, guardato. Negativo. Napoli. Via. Via. Luca. Cazzo. No, neanche io non sto ascoltando più niente. È per quello che non me ne sono accorto. Oh, ma è successo oggi? No, è 2 settimane dice che va avanti questa storia. Dimmi tu, si sente la voce chiara, chiara mia, dice. Mi ha telefonato un amico, guarda, e sono preoccupato non poco. Boh, io non ho... ascolto sempre, sempre azzeso, però oggi mai ti sono. Eppure dice che è successo. Che il segnale è basso, però... cazzo. Hanno mandato questa storia qui. Bisogna che ne la finiscano, sennò io posso una bella denuncia e vi vieni in indutimi, chissà uccia. Ma sai se, se stanno traslando oppure una registrazione? Hanno traslato una registrazione che si sente io che parlo, magari io parlavo qua, no? Dove stiamo parlando adesso. E io stavo parlando con mia moglie, si sente il cane che abbaia e si sente la voce chiara, chiara mia, che parlo con mia moglie, capito? Una registrazione deve essere che hanno mandato. Qualche infame, cazzo. È infame solo. E poi, boh, io sinceramente accendo tutti i giorni lì, però, boh, non l'ho sentita Natalia, sinceramente, sono stata lì, te l'avevo detto subito. E meno male mi ha telefonato questa persona. Eh sì, così prendi i provvedimenti se succede. Ma non è possibile, cazzo. Beh, adesso ti attacco il ricevitore e mi metto all'ascolto, cosa vuoi che ti dica? Se non arrivi a caduto, proprio vanno a chi non me ne ha nuda, via, cucciati, niente. Mi hanno bastato, fatto bassare la gana, figurati se mi pongo a... Oh, yeah. Deve essere, mi hanno sentito qui, hanno registrato e poi hanno mandato questa registrazione di lì. Non lo so io. Anni che ci ho visto la ienti. Oh, io, yeah. Per carità, vuole che saremmo tutte buche. E buona ruina sia la 27 che a me. Questi vogliono che spegniamo tutto e basta. La vuoi ti dica. Ma di tu buru quanto la arrivi a rosignare e tutto. Che si abbassona. Beh, dimmi tu. È già, e non è un giorno, no, è già 2 settimane che sta andando avanti questa storia. Ma. Vuol dire che se viene qualcuno qua prenderemo provvedimenti, ma di brutto, me. Perché qui a un certo punto non è sopportabile la storia, perché qui mi vogliono rovinare a me, capito? Non la zecchi, la ienti e ti zecca, ne ti rimmaginecci. Se sento ti faccio sapere. Sì, immediatamente. Guarda, segnale tutto. A chi si riesce a ciapparlo, bogu bogu, vedrai che mi posso passare la gana, una voce a battuti. Solo un cibi può fare che cose, Natalia. Solo un cibi che boh, giroso, cosa ne so. Ma di cosa deve essere giroso? Di cosa deve essere giroso la gente di me? Boh. Beh, ma infatti, se l'ha fatto solo a te, vuol dire che è proprio un tengo, Franco. Hanno pezzo il gallo. E infatti, aspetta un attimo che... Attente cingo. Se pago drammi chi su. Ho messo il ricevitore adesso. Luca, sentito hai? Ti hai sentito? Ho messo il ricevitore. Ma aspetta, ce l'avevo solo che merda. Ma bisogna accucciare anch'io, Brooke. Ma te l'hanno messo? No, non le hanno messo adesso. Se non c'è nessuno. Capito? È da due settimane che va avanti questa storia. Non è la prima volta che l'hanno in buccio, no? Qua bisogna cercare di sapere da dov'è che arriva il segnale e beccarlo di brutto. Questa volta gliela faccio pagare. Io ripeto, non ho sentito niente, poi bisogna quanto dura la registrazione, capito? E come ti faccio a farlo? Infatti no, non lo so, io non ho sentito nulla, perché non avevo niente, non stavo ascoltando cosa cazzo a me, perché me l'hanno detto. Me l'hanno detto oggi, mi ripeto, io ascolto sempre, però non ho sentito nulla, se no te l'avrei detto subito. Sì, infatti, bisogna ascoltare e vedere un po' la situazione, perché qua ci sono la gente che la mancia di luce. Ma no, io ho mandato una registrazione a casa a Marco, qualcuno li metteva la portante. Abbassa appena appena lui, che stai uscendo rimbombante. Così mi dava, ho detto ieri, ho mandato la registrazione anche a Marco, un video che quando parlava lui qualcuno gli metteva la portante. Che c'è una roba da chiudere. A me che mi trasladano a 145-525 e a lui gli mettono la portante, boh. Cazzo, ma mi viene gente guasta a me. Più che altro sono vigliacchi e infami, perché queste cose non si fanno, non si trasla nessuno. Sì, che sono i grandi su Mangiaro, veramente. E poi la buona è entrato. Che so che ha detto assassini, cosa ha detto? Perché stavamo parlando degli immigrati che hanno detto vigliacchi assassini, ha detto. E non esprime il proprio pensiero, poi da dire al fare. Non lo sembra te. Lo so. Però la gente. La gente dovrebbe avere il coraggio di parlare in faccia. Se uno c'ha qualcosa contro di me, venga e me lo dica in faccia, invece di fare queste cose. Infatti, no, se lo mettono già ti faccio la registrazione. Certo, che caspita, ci mancherebbe. Adesso se entra Marcolino lo dico anche a Marcolino, perché cazzo non è possibile. E no, che sono fendi di tutto, ma cioè, per chiudere questo cazzo della frequenza, che non c'è, cioè, stanno arrivando al punto di farci chiudere a tutti e che non entriamo più nessuno. E infatti, guarda, il 90% delle volte sono ascolto in altre bande, così che se chiudiamo a me non mi va né caldo né freddo, sinceramente. Lo so. Io invece manco ascoltando stavo, è per quello che mi ha trovato impreparata la situazione. E manco mai mi ha telefonato Ilia Bassona. Ma... e mi l'ha detto. E anche bisogna essere pronta a registrare. Sì, fa. Ma... vediamo a vedere se fa lo stronzo, torna e la mette e torna. sì, gli reggenti che la ciafa, non c'è problema. E lui la mette attorno, la buia, ridimo, le posso una denuncia se ne ringhi di mucchiazzi. Va. Non ti va a cagare che ti è successo, ma sono contenti di farsi. Infatti, e non è quello. È reato. Tre anni in prigione, isogo, gatti, e più devi ne rompimi i cazzi. No, no, non ce la faccio a rimanere tranquillo. No. Ma Corino! Mi presola! Brigido! Oi, fiore! Mi mammo! Caro caro! E quel prostituto di Luca qua è! Ehi, perché lo vuoi? Io non lo so, sto facendo ginnastica mentalmente e mi interrompe. La ginnastica, la vera. Per carità, cazzo, neanche la ginnastica in salta a pace si può fare. Ma col tappiculan. Aia. Chi c'è Emanuele, Matteo? Non ne posso fare né caso né lana io. Non c'è il tappiculan, c'è il tappiculan, Emanuele. Ma è vero? Lo usare? Sì. Lo vedo quando lo fa, so cosa è il perché non mi fa di nulla. Sì, vabbè, dai, vediamo un po'. Adesso anch'io ho messo lo scanner in funzione. Se dovesse succedere, poi già c'è altra gente che c'ha la direttiva e sappiamo da dove viene i segnali. Così lo visighiamo immediatamente. Vabbè, con quella sì. Anche con una piccola, esatto, infatti con la verticale è un po' così, e con la verticale non fai niente, puoi ascoltare quando la metti con la verticale, però a me mi interessa, già c'è gente che c'ha quella là, che così almeno guarda da dove viene. Mi bella. Occhi, occhi, Isa! Cazzo, non so se è che a me mi faccio i bippi, faccio un addominale da paura. E l'addominale, cazzo? Non so se è che mi fa i bippi, c'ho un addominale, cazzo, da paura. A me quello che mi ha fatto l'ecografia mi ha detto, ma sport faceva lì? E ha detto sì che l'ho fatto lo sport, perché c'ha un fisico di uno che ha fatto sport. Quindi una pipa mi fa da tenere. Cari, sono io, mi ha detto il dottore, cazzo lì fa sport, ma cazzo lì è uscito appena la tanta lunga l'ho visto. Chi ci sono i bisecchi? Cazzo, è uscito anche uno, ma è uscito. Tutto il suo lavoro che ti dia, un grido. Ma fermo io, Luca, cazzo, già lo sai. Sembra affettendo a Natali. Ehi, la salina, affettendo esattizia, mi ha detto Natali affetta burundù. E la mia bocca buona, mamma, si va a porca, si va a buddito. Emanuele, buon gustaio, Ma Natali so che affittendo un po' di assistenza, allora giubiliate il burro, gatta, e deve affittendo il burro io, impare Emanuele. Emanuele è bravo di azentria. Vero Emanuele, quello che sta dicendo Luca. È senza buccia. Emanuele. E adesso gli hai messo la pulce, ed è già la carrizza in bocca. Oh, ci sentiamo stasera, ragazzoni, che sto facendo un po' di stretching. Lo stretching stai facendo? Ma sentite cosa ha detto Luca? No, cosa ha detto? Che ti piace la salsiccia senza buccia, intera. Cazzo, ma lo vai tu lo sa? Ma non è che ha regato, una parola, non è regato la chiesa di Galeso, dai, si bacchi a casa, no? Ah, non è su io, no? Ma non si può dire niente, non ci gioco più con voi, Stamattina parlando nel Natale di Vassile e Bucciù, l'eccitamento. E cai se ti vasi? Bucciù Bucciù. Come sta per uccidere, cai se ti vasi? Era un assago, ma era Domenico, ok. Come si fa il Natale? Chi? A Domenico Peroncino, troppo dopo era. E poi da si di sì, Adesso non ce l'ho presente la verità. Lavorava alla Icom, lavorava. Guarda, troppo in gamba era quell'uomo, cazzo, troppo in gamba. Sì, vendi tutto, vendi. Luca, è un casotto. Se non basta prima lo di vuoi e non puoi di vuoi da. Ah, ma che posso vuoi da? Mi ne so offendere tutti i curori. Ma, vabbè, se mi costringono a chiudere, vedrai cosa faccio io, Luca. Natali, chi so che fumi, non hai compreso? Che chi so che fumi? Che me ne vado da qua. Allora, è così che l'hai vinta. La stessa cosa è successa a cosa, Giulio, secondo me. Ma quando lui stavano sempre, ti ricordi, stavano modulando, mettendo la portante, si è stufato anche lui e si è arreso. Ma secondo me non bisogna fare così, se no gliela dai vinta. Già lo so che gliela dai vinta a questi infami. A chi sono infami? Gente che fa di così, cazzo, mica infame non può essere. Intanto quando chiudi tu c'è l'altro, non è che chiude anche lui, no? Ci sarà sempre un'altra persona da rompergli la scatola. Non è isso. E io anche si rabbigliano con un altro, un prezzo. È quello il discorso. Mamma, dovrebbe essere una ginnastica, c'è un bezzino. E la stessa cosa l'altra volta che stavano sovramodulando a... Io mettendo la portante a Giulio, mi ha giocato il video, per l'ha mandato. Ehi, Arusogu. A Giulio lo stesso ne l'hanno fatto tutti i colori e si sarà rotto le scatole anche lui. Infatti poco sta entrando, proprio per quel motivo lì. Infatti il problema è che poi si stufano tutti, non è solo una cucina, una cosa, è entrare ogni tanto, se no si stufano tutti. Noi, se voi ne fate anche altro, se ne sono fuggiti tutti, se ne sono fuggiti da ieri, boh. Come quello che mi ha raccontato. Sai, se in estate è peggio, in estate sarà proprio un deserto. Quando inizia l'estate, vedrai, arriveremo a chiudere, perché no, non entra più nessuno. No, non entra nell'inverno, con la cusa, entra nel cibo. No, ma in estate è peggio, in estate è sempre calato un bel, capito? In estivo è peggio. Già siamo quattro gorri di graba e ce ne capiamo l'occhi uno con l'altro, ma io, cazzo, che mi fanno, non lo so io, tutti bisticciando uno con l'altro, ma io cazzo so di non aver fatto niente a nessuno, eppure mi stanno facendo queste carognate, aiuto, di più ne vuoi. Sapeva, capito come lo stavano facendo con Giulio, appunto. Cazzo, non parliamo di rubintavani. Sì, come ti entrava Edo subito la portante. E a Gianni non riesce a ne vendere la stessa cosa. Ma la razza di macchini, boh. E infatti la gente poi si stufa e manda tutto a quel paese. Io mi sono stufato già per i fatti miei, figurati in più, mi fanno quello che mi stanno facendo. Allora, uno piglia una decisione e si manda tutto a fanguallo. Tutto quello che ha fatto per... Tu fai come il 5, che si mette a fare ginnastica. Vuol dire anche io mi farò gli addominali, cosa vuoi ti dica? Faccio lo stretching, come dice lui. Prima si vede un litro di vino, però. Un po' gumari di veni a fallo, se si vede un litro di vino. Ma sei bravo anche tu, quando se ne vede una tazza in più. Con mamma bisticcia. È così, Ma stasera non entra nessuno. Che ore sono? Cazzo, già le semeno 5, non è entrato nessuno ancora, solo uno e due. Guida per di ginnastica, boh. E vedi anche io quando entravo con qualcuno che non mi fa, non c'entro, capito? Però meno male, lascia spazio a tutti, in realtà, no? Quando sento che c'è quelle determinate persone non entro, lo sapevo in affutto a me. Io Billo già l'hai visto, ti ha già mandato un video, giro. Sì, giusto. ti sembrerà assurdo, ma il fatto che la gamba sia tornata a farmi male. Purtroppo io da girare non ne ho, e cosa giro? Sì. Vedi che i nervi si stanno attivando. Non posso più girare nulla. Ma... vabbè, già c'è il ricevitore, già puoi girare. Ehi, ma cosa giri? Con quel ricevitore no, non giri nulla. A chi non è fa, paghi su vinta di Sava a me. Ti cambia la notizia. E se lo va sopra, Ghisso. È l'altro, non l'ha ritirato ancora. No, quello lì non l'ho ritirato ancora, ma intanto gli faccio fare la fine di quell'altro. Mi rende tanto cosa cazzo. Cosa stai lì a rompere le scatole? Tanto è inutile. No, lo usavo per ascoltare quello là. Quello quando me lo danno lo stesso non lo uso per ascolto e quindi me lo vendo. Cosa mi rompo? Ma giù per te volevi dire una cosa, ma comprate ne un'altra, stavo dicendo 5.500 o quale, non so. Quello lì mi avrebbe fatto comodo per l'estate, da quando c'è la propagazione, perché non avendo quelli là, canali non ne ho con questo. Questo lo voglio lasciare normale, non lo vedo Gunetti, sono nel mirino. E quindi no, non fa. Bisogna da gallo normale, boh. Poca propaganda c'è. Però intanto li hanno finiti quelli lì. Marco non me ne rende, perché io lo volevo comprare da Marco, capito, quello là. Però non te ne vende, se no me l'avrei preso. L'avrei usato in estate, boh. Già ci sono. Guarda, l'ho visto anche poco fa, sempre tramite negozio. 160 euro. No, che l'hanno finiti, non ne hanno cavato, ma sono andato a comprarlo e non era disponibile. E quale modello? Quello che c'avevo io prima. Quello che si regolava la potenza, io lo volevo pure, perché quello scende a 2 watt. Ma capito? Scende meno di 4 watt. Questo qui che sto usando ne ha 4, invece quello scende fino a 2 pure. Tanto a un traffico che fai, no, che più di 2 watt lui tratta. Io lo volevo anche per quello, perché scende di più di questo, diciamo. Ma se non è andato? E allora? Sì. Ho la T555, io quello lì volevo comprare. Quello lì a 2 watt va. Ce l'avevo io e me l'ho venduto. Le mani mi dovevo dargli a. Prima di vendirlo. Mi è giunto qui, non c'ho apparecchi, questo e quest'altro, e gliel'ho venduto. E dopo lui ce l'ha rivenduto a un altro. E mi ha fatto un bagà quasi nuovo. No, li ho visti. Anche poco fa li ho visti. Sto dicendo, sono andato a comprarlo, gli ho detto acquista un cacchio, cosa acquista? Non era disponibile. L'hanno finiti, compreso. Aspetta che sto riguardando se c'è ancora il vendita, ma credo di sì. E boh, cosa vuoi dire? Quello da 160 e tutti l'hanno finito, perché me lo stavo comprando. 6.900 costa un casino di soldi, va? Un bel di più. Quello non lo voglio nuovo, perché dice che sono difettosi, è per quello che non lo voglio quello di nuovo. Sì, c'è 6.900. Perfetto, con la scatola è tutto. Il 6.900N 170 euro. Ma dice che quelli N sono difettosi. Quello lì non lo voglio comprare a paghissimo. A chi dici sono difettosi? Non so dove ce l'hanno questo difetto. allora non me l'hanno. Comunque dice che sono difettosi questi nuovi e sono usciti. C'è anche il modello V. Lo vuoi il modello V? Sarebbe il modello V. C'è il modello M e il modello V. Programmabile da computer, eccetera, eccetera. Anche quello l'ha visto. Cioè quello normale, non quello, quello vecchio, quello che c'ha Marco, non c'è più quello lì. Sono uscita la serie nuova ma sono difettosi. Me lo stava dicendo pure Marco. Non lo so quello che c'ha Marco, questo c'ha 60 watt addirittura. Il 6009V, quant'è che viene? Poi ci capita di lavorare insieme. 200. Allora bisogna vedere se la versione vecchia o nuova, perché Marco c'ha la versione vecchia e quello è perfetto, dice, non c'ha nulla, nessun difetto. C'è anche il mio 2009, non ti piace? Che è il gemello alla fine di... Non ti piace? Che cosa? Il 9009? Se gliel'ho detto non me ne può dare o uno l'altro, uno qualunque di quelli. Capito? Nuova, usata veramente quasi niente, 140 lo sto dando. C'ha la scatola e tutto. 2009? Il 9009 è un programmabile da computer, eccetera, eccetera. Sì, già lo so. Sono tutti programmabili, dici. Te lo danno già modificato addirittura, se lo pigli nuovo e non ti fanno pagare la modifica, te la pigli in 27, se no non ci va in 27, hai capito? Io te lo mando. Adesso lo guardo. C'è anche il 7009, un altro 9950, ti dà anche, c'è la sascatola in più, anche un accordatore. Questo da 140, ma non ve lo linki però. No, un altro che sto guardando, sempre 9009, per 150 euro ti dà anche un accordatore ZGTM999. Io capisco. Fammi sapere se vuoi, ti mando il link di uno o dell'altro. C'è anche un 7009. Come? C'è anche il 7009. Quello con i tasti. Molto bello anche quello. C'ha tre strumenti in contemporanea. Bello. 7009 V Turbo. 60 watt, MFM, USB, LSB, scheda eco, Roger Beep, eccetera, eccetera. E tutti virano i record, tutti così soghissimi. Ma per dirti, vedi che già ci sono, ma per me è un bel, non è che penso lui su, capito? E se Marco non ti lo vuole dare, ti rubiglierò una tabacca. Bisogna vedere se sono difettosi, chi si sono vendendo. Hai capito cos'è il discorso? Perché quelli nuovi che sono usciti, dice che sono difettosi. Il 9009. E allora 9009, 6009, sono tutti difettosi lì. Non lo so, questo dicevo usato pochissimo. Completo di scatto, istruzioni, quello che abbiamo andato prima. Io ho capito. Sì, è andata per cercare di dopo la frana. Cazzo, è che sono privati questi, se è dopo è difettoso di devi dire così. Basta, aspetta che mi ha mandato un messaggio, vedere che versione è. Ma comunque sono sempre fuori legge i caparatti. Sì, lo so. Sì, che cosa di giamba? Non ti giamba nulla. Mi giamba che io rimane normale, non è così. Lo so, ma poi ne usi uno che è fuori legge, metti il regista, eccetera, e si sempre chiami, Natali. Si deve venire bene, è quella di nutri, non si muove, dice no. Chi si dà buo fai di buai e si acconta. Lo so. Però quello di su si sta guardando la televisione con l'antenna mia. È provato a... Vabbè, sì che se non disturbato non disturba lui. Così che adesso sei tranquillo. E noi paghi su. Ti tira giù di tutto. proprio per quel motivo lì. Ti sto dicendo che devi gestire questa cosa in modo intelligente. Stavo telefonando a Marco ma non risponde, deve essere dalla zia a installargli la stampante. Ma non ha detto Marco che era difettoso anche la sua versione, l'ha detto in radio. Il 9009 dice che era difettoso. Mi sei chiesto cosa vuoi tu, il 5005? Ma non ti mi dazi, non hai compreso. Non puoi essere invalente. Non te ne dà. Né 6009, c'è il 7009, il 5005. No, un casino. Come se mi sa? Sai che hai detto, Luca? Che collezionista, dammi dati sempre chiesto intanto, questa la vita. Infatti. Ma è quanto tu? Io a chi non voglio vedere Canari, no? Un altro Polma. So, però no. Non te ne fai nulla per quello che voglio fare io. Si pone chi dove che ti sono si vende, da vedersi di vai di ex. No, me lo voglio vendere, non ne voglio più il rompimento di balle, capito? In modo che quando vieni no, che cazzo ma c'è pane in regola, non puoi dirmi. Hai capito com'è il discorso? Ma se vuoi usare Natale, se vuoi anche fare i bruvi, che si disturbendi. No, non disturbo più nessuno. Ho messo un partitore io, con tre uscite. Una per l'amplificatore, una va a lui e una a me. E si sta guardando la televisione con l'antenna mia, quello là, quello che disturbavo, hai capito? Perché intanto sul tetto non si può salire. Allora gli ho comprato il cavo, il coso, un partitore e l'ho attaccato all'antenna mia praticamente. Sicché non cosa devi dirmi? Casotto. No, sempre meglio evitare. Invece ne uno, di 5005, nuovissimo, usato mezz'ora, 150 euro, 30 watt, 42 watt in FM, 12 watt AMCW, FM, USB, USB-CW, programmabile da PC, e nuovo nuovo il muro. Sempre privato il tipo. Sì. Ma già io prima di lo stesso, prima di comprare così, io guardo chi è, chi non è, lo telefono, capito, eccetera, eccetera. Mai mandato una butidura, mai. Capito? La stessa cosa faccio io quando metto in vendita, metto il numero di telefono, mando i video per funzionamento e tutto quanto. Ho capito. Ascolterei tutte le sue pene d'amore e aspettare il momento giusto per dichiararsi. Ma il momento giusto io sento che adesso. Si tratta di gargare a gatta e. Questo l'ho usato, io l'ho usato solo 30 minuti, con strafo, capo di alimentazione, microfono a palmo, istruzione e in ballo. Ce n'è uno, questo l'ho venduto. Ce n'era uno 130, l'ho venduto. Il 9009 sembra più piccolo del 3009 che ho io. Bello. Ma forse questo è il destino della vita. Dove li stai leggendo, Olu? Su Facebook, su Marketplace. No, aspetta che guardo nel negozio dove ho preso questo, se ne ha. Lui già ce l'ha il 2009, già è sparso, eccetera. Ma chi c'ha canzoni tu? Ma a me così lo conto. 2.30. Chi vuole? Io. Aspetta. No, non è così conto. Allora, aspetta, prezzo di listino, 2.40, vendere con lo sconto 2.30. Sono i 9.009 a galleria. Alla nuova sì, aspetta guardo sugli usati che ha, tanti mille ha fatti fuori subito. Cosa? Mm, li ha fatti fuori subito. C'ha un 140 adesso, sì, 80. Ma dissi, non ne voglio assolutamente. Come mi entra in mano quella là? Subito. Si rimbacco e via. Allora, ti ho detto, fai la fermuta, come ti ha giocato tu, io te ne voglio dire, un po' per roba. E c'è la 48, Zodiac Tokyo, e poi centinaia di amatoriali, da portatili, veicolari, base. Attento, giù con ginnasta. Chi è avanti? Natale. Dimmi. Sì. Bene, no, volevo sapere come sta andando questo microfono. Bene. Bene, bene. Se ne posso provare un altro, giusto per vedere cosa cambia, vai. E vai, sì, dai. No, guarda. Eccolo qua. Com'è questo invece? Basso di radio stai uscendo. Aspetta. Oh, ha cambiato qualcosa? Si è alzato appena. Ora, e adesso ha cambiato? È un po' alzato, e boh, ma non è come quello là era meglio. Va bene, aspetta un attimino, sto provando così, a tre tastini, quindi non lo so cosa, così ha cambiato? Sembra sempre uguale. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. La radio va bene, è chiara. Sì, sei lì tu, un casotto di rumore è uscito. Oh, ora, 1, 2, 3, prova, e ora? La carità, chi ci andava? No, non è il microfono, è il cavetto, infatti lo sto riparando col cavetto dell'altra radio, va bene, boh. Questo va bene, questo sei tu. Faccio un'altra prova e basta, eh? Ok. Bene, guarda questo, ascolta com'è, se è cambiato qualcosa, sono due similari, eh? E infatti non ha cambiato nulla, sembra che non abbia cambiato niente. Bene, ho capito. Va bene, e allora il cavetto, che non va bene. Io capisco. Vabbè, ho ripiazzato quello là, dai. Così questo lo rimettono alla radio dove doveva essere. Via. Cambiato e basta, che cacchio è lui? C'è qualcosa nel cavo, se è uguale a questo controlla che c'è qualcosa o nel circuito c'è qualcosa che non va. Cosa vuoi che ti dica? Guarda, adesso provo a fare l'ultima prova, mi dice se cambia qualcosa da questo microfono a quest'altro. Adesso mi metto questo cavo qua. Cosa vuoi, ciucucciù? Ora, ha cambiato la tariffa. chiama e funziona in diretta. Sta funzionando bene. Eia. E dalla bambina. Allora è Rugavu, bro. Può essere. Non so cosa dirti. Perché il microfono è lo stesso. Infatti, vuol dire che il cavo, se tu gli hai cambiato il cavo e funziona bene. Per indirizzo. Che vuoi che le dica? Vabbè, ciucucciù. Non parla adesso, no. Adesso lo faccio parlare con Muro a questo ciucucciù. Cosa vuoi farci? Che fastidio, porca miseria. Se tu l'hai visto Rugavu di Chido e andava, vuol dire Rugavu che lei ha che filo che magari è interrotto, hai capito? Ho capito Natalia, ma radio gemella stava funzionando bene, adesso qua no. Che vuoi che te dica, io non so cosa hai fatto. Guarda, adesso no, non ci credo, adesso sta funzionando bene, vero? Sì. No, va, no, va e basta. Non so che dirti, il cavo. Infatti. Quel microfono che penso io è. Sì, la MX 60. E allora lampa di Rugavu, a che isso? Ma il fatto è che in una radio va bene, in un'altra radio non va bene. Quindi non so che dirti. E infatti, è strano, Buongiorno. O non facile contatto. Tutto bene? Sento. Non è possibile che in una vada bene e nell'altra no. E cosa state combinando con i microfoni? Ah, io nulla. Tutto bene, scusate. Tino è che si sta zuffando con il microfono. Problemi, Tino? No, i problemi sono di chi si rimette. No. Questo è un altro microfono, però. Natalì, guarda un pochino, si è migliorato. È più basso e questo sembra un microfono normale. Figurati, ed è quello originale della radio, Dimmi due, va. Vai due a pillare. Sì, però amplificato, parlo microfono da tavola. Questo invece è un altro, il 60, che è il mio, però con un'altra radio. Dice funziona in diverso. Questa è una bomba, Tino. Buonasera Carlo da questa. Sì, ciao Carlo, sì, questo non avevo dubbi che funzionava. Abbiamo provato un altro mic e non sta rendendo come questo, ecco. Vabbè, risolveremo anche questo. Sì, no, questo è bello, forte, Super 5, è bello chiaro, potente, il segnale 9+30 qua a casa mia e sta uscendo molto bene. Ma non è che c'è il tassino di sotto che è spostato? Sì, guarda il tassino. Dov'è? Su in. Deve essere su in me. Sì, Natalia, vabbè, dopo tanti anni già lo conosco. Sì, è su in, però come te lo posso dire, abbinato con un'altra radio che dovrebbe spingere e invece non spinge, capito? Va bene. Oh Carlo! Ehi, dimmi Natalia. Sai che c'è un infame cazzo che sta mandando una mia registrazione in banda radioamatoriale, in VHS, che si sente la voce mia chiara chiara parlando con mia moglie e il cane che abbaia, ed è già un due settimane sta andando avanti questa attività. Siccome io non stavo ascoltando, non me ne sono accorto, ma hanno telefonato e mi hanno detto vittimi buoni, bru più arruinati. Qualche dispetto che ti vogliono fare. E infatti. Anche tu un iPad di tutti i giorni. Ma. 11 al 19 aprile. Sì, a Misani. Prego, tu continua a fare il tuo, scusate che sto mangiando, sono rientrato poco fa dal lavoro e quindi sto sgranocchiando qualche biscotto. Ho capito. Vabbè, io già continuo a fare il mio, per quello adesso dico anche la frequenza che sono, canale 10 della 27. 27 075, glielo capiranno che non sono io che fa che va a rompere le scatole alla gente che non devono rompere le scatole. E infatti poco ci costa dire che ogni tanto siamo sulla 27 0750, canale 10. Non ti preoccupare che è già monitorizzato, fregatene, Natale, già lo sanno che ti stanno traslando. Mi stanno traslando a me, si intendi la voce mia, fa vedendo come i moglieri rugani gabbaggia, lo capiranno che non sono io che sto facendo questo lavoro qua. Lascia arrivare. A me neanche per il corso non è passa. Ma mi più cabumi, mi viene gente guarda. Ho capito, adesso già faccio un po' di ascolto anche io se lo sento, Natali. E dice che è roba di 2 settimane, mi hanno telefonato oggi a avvertirmi una persona che ha sentito questa storia qua. Eh beh, lo credo, ha fatto bene ad avvisarti. Ma cosa vuoi che ti dica? Niente, l'hai paccato lo gabbo subito, ma paccato dov'è però, è lui. Bisogna sabbigare, ti fa di chi si travagli, Emanuele. E paccato dov'è lo gabbo, ma a me però, allora manco non lo faccio più. Ma bisogna sapere chi è, capito l'hai, io non l'ho manco sentito, chi l'ha sentito è un'altra persona che mi stavano traslando di là, sicuramente è una registrazione perché la stanno mandando spesso, dice. Ma per carità, cazzo, che busta ci prendono. Quando mai non hanno capito che non si fa, sia per noi che per gli altri? Perché quelli prendono e traslano anche i radiamatturi da noi, hai capito cos'è il discorso? No, si va, si è bu. Quello lo facevano anche con me e con altra gente che parlava e ci traslava sulla frequenza radioamatoriale. Fa rompiti beberi capri, mi rubate. Io penso di non aver fatto del male a nessuno, però purtroppo sta succedendo questa situazione. Ciao, buonasera Emanuele, non ti avevo sentito. Oh, ciao Carlo, ben sentito anche a te. E io la prima cosa che sento questa Natalino, non sapevo niente. Anch'io ogni tanto faccio un po' di ascolto là su quelle frequenze. Però ultimamente non avevo tempo perché avevo un sacco di cose da fare, eccetera, in famiglia, quindi poco ci stavo entrando in radio da nessuna parte praticamente, quindi non mi ero accorto di niente. Ma se lo sento già l'avviso subito a Natalino. Lo so, neanche io stavo ascoltando, quindi non me ne sono accorto. A me perché mi hanno telefonato e me l'hanno detto oggi. Che sei gente malata, sinceramente gente malata quando fa queste cose qua. Allora, dopo 3 anni in prigione che non esce di casa e vuole pure di Sarrinoghi, boh. Che schifo, cazzo, per carità. Vabbè, dai, ogni tanto può capitare che ci imbattiamo con personaggi così, si divertono così, speriamo gli passi in fretta. Perché se scopro chi è, gli faccio la denuncia, se ne lecca anche i baffi. Lo credo bene, a parte che là già sta facendo un reato a trasmettere, anche se è una registrazione di un altro, è pur sempre una trasmissione che tu stai facendo su frequenze che non sei autorizzato, capito? Infatti, già lo capiranno che è una registrazione, chi di dovere. Pace bene figlioli. Ciao carissimo. Ciao, buonasera a tutti. Che è successo? Che è successo? Sento che è successo qualche cosa. Cosa hanno combinato ancora? E mi stanno traslando nella frequenza che usate voi, hai capito cos'è il discorso? Deve essere, stanno mandando una registrazione che si sente la voce mia, chiara chiara, parlando con mia moglie e il cane che abbaia, capito? A me mi hanno avvertito un amico e mi stanno traslando lì. Sì, anche ieri stavano rompendo, ma devo stare attenti. Devo stare attenti che là non è come qua. Ascolto, c'è tanta gente, ce lo dice, guarda che di là, da queste parti c'è un forte segnale, guarda che di lì, come si dice? Insomma ci smettono di più, ma in parole povere. Tutto lì, buongiorno anche, mi sono dimenticato il nome, mannaggia. Vabbè, all'altra che contento, lì. Adesso mi viene il nome, te lo immagini, la vecchiaia, quindi sono scusato. Sì, siamo tutti vecchi, c'è Carlo qua, Tino, Manuele. Beh, devo dire che come banchiere sempre gestito. Vai Carlo per Gianfranco. Sì signore, eccomi qua, buonasera Gianfranco, non fa niente Gianfranco, e magari che ci sentiamo poco e quindi ci sta pure che uno così non ti venga all'improvviso il nome di una persona con la quale magari hai parlato poche volte e per lo più tanto tempo fa. Ben sentito, ero da tanto tempo che non ti sentivo, sempre un piacere se entri a fare quattro chiacchiere con noi. Vai Emanuele per Gianfranco. Ok dai, ciao Gianfranco, ben sentito, dopo tanto, dai, vai Natalia. Va bene. Io purtroppo vi devo lasciare perché devo fare cosa. Vi saluto tutti, al limite più tardi già rientro se coincide, dai. Salutoni a tutti, QRT per me. Leia, ciao Natali, già siamo qua noi a fare quattro chiacchiere, quando vuoi bussa. Ciao, beh, sai quello che devi fare, tante cose belle, mi sono dovuto assentare che avevo una bassa, Bene, Carlo, vuoi parlare al microfono, va bene? Questo è un altro ancora, Tino. No, sempre il solito, sempre lo stesso. Guarda, qua mi arrivi bello chiaro, come prima. Vabbè, mi è parso di sentire Emanuele, va bene? Ciao T, stai uscendo benissimo. Non sento rossetti, ti ascolto basso, però già riesco a toglierti fuori. Altro già, e cosa devo fare? Un'altra la mia macchina, cosa devi fare? Anzi, se troppo che arrivi. Comunque tu arrivi abbastanza bene qua. No, vabbè, stavo provando dei microfoni che avevo in ballo e niente, ho trovato quello che è per lui, dai, diciamo. Sì, è entrato anche Gianfranco e Tino, magari ti eri spostato e non l'hai sentito, Gianfranco è entrato qualche minuto fa e poi è uscito Natalino. Sì, Natalino l'ho salutato, ciao Gianfranco, non posso dire, me l'ha ascoltato perché ancora non ti ho ascoltato, avanti. Sì, ciao, buonasera Tino, buonasera anche a Emanuele. Tino, vediamo un po', sei a Porto Torres, se non ricordo male, sta andando un po' interrogativo, di lì com'è la situazione, com'è il tempo? Qua c'ho l'antenna praticamente che più che in verticale, oramai è in orizzontale dal vento che c'è, vediamo un po' che maestrale mi sembra. Se non ricordo male tu sei lì a Porto Torres, com'è la situazione? No Gianfra, sono periferia di Sassari, dai, diciamo subito dopo la Teoce, l'uscita della Teoce per andare verso Platanoa. No, non c'è vento anche qua, però vabbè, sono a Sassari. Ah, ho capito, di lì prima c'ero io, ci abitavo io, in quella zona è proprio all'uscita, vicino ai semafori, per uscire di lì alla Udi Budi. Va bene, io ti lancio a Carlo. Carlo, riprendi, come sta comportando l'antenna quella, tu c'hai quella là, lunga, la J-Pol, se non ricordo male, giusto? Sì, positivo, diciamo che ancora è lì, bella stabile, e ho visto che anche col vento si comporta abbastanza bene, perché essendo a forma di J e poi tra i due stili, diciamo, c'è un raccordo, la rinforza bene alla base, per cui muove solo la flette, solo la parte finale dello stilo principale, ovviamente quando c'è questo vento forte, ma è strano perché io ero al lavoro sino alle 16 e quando sono uscito i colleghi mi dicevano che aveva scardinato anche il cancello al Varco Carraio il vento, perché all'aeroporto prende proprio bene bene il vento in pieno in quella zona là, e quando è così teso molte volte il cancello grande vibra, lo fa ballare il vento e esce fuori dal binario, quindi bisogna sempre ricorrere ai manutentori che poi lo rimettono, diciamo, a cavallo, a posto con il palanchino, si aiutano. E purtroppo succede quando fa forte vento, perché si è consumato il binario a furia di entrare mezzi pesanti eccetera, e quindi lo devono sistemare, ma ti posso garantire che ho visto qualche aereo atterrare che ha fatto qualche piega in più del dovuto proprio dalla forza del vento. Dovrebbe calare intorno a stasera tardi. Scusate, riprendo io un attimino che devo andare via, quindi non volevo lasciare sospeso i saluti prima di mollare tutto. Ok, dai, vado via, ciao, correggi per me da parte mia. Riprendi Carlo. Ciao Tino, ci sentiamo quando capita, dai. Mi ha fatto piacere sentirti, vai Gianfra. Sì, ciao Tino, allora buona serata. Sì, riprendi Emanuele. Carlo, non so se sto uscendo. Sto uscendo, sì. Sì, stai uscendo Gianfra, forte e chiaro qua. Accidenti, un attimo, lo sapevo io che c'era il guaio. Un attimino. Ehi, avanti break. Ok, ciao Carlo, salutoni. Ben ascoltato. Non voglio perdere l'occasione per salutare a Gianfranco, che sono un sacco di tempo che non lo sentivo. Oggi finalmente, dopo qualche annetto, lo risento. Poi mi pare di capire che c'è anche Emanuele, ma Emanuele purtroppo mi dispiace, ma non lo ascolto. Peccato. Avanti Gianfranco, se mi hai ascoltato, K Giulio da questa parte. Sì, ciao, buonasera, ben ascoltato. Io purtroppo non posso trasmettere oltre perché ho fondoscala di stazionaria, sicuramente si è sganciato il collettore perché c'è un vento fortissimo qua, quindi prima di fare danno vi devo salutare e andare a controllare cosa è successo. Buona serata a tutti, alle prossime, sempre che mi ascoltiate, perché ripeto, c'ho stazionaria a fondoscala. Ok, ciao Gianfranco, tempo fa avevo avuto anch'io quel problema, era ossidato il PL all'attacco dell'antenna, un punto uguale alla tua che ho io, per cui tutto risolto lì. Nel PL c'era l'ussido e c'era tante di quelle stazionali che ho dovuto tirare giù per pulire tutto. Va bene, c'è ancora allora Gianfranco, alle prossime. Riprendi pure Emanuele, io rimango in quel rischio, se ci sentiamo magari in un altro momento. Ciao Carlo e ciao Emanuele, se mi stai ascoltando. Mi pare la fonte tu o Carlo, se mi ha sentito Emanuele. Ciao, basta, riprendi. Ciao Giulio, buonasera. E non lo so, magari Emanuele si è anche spostato, perché prima c'era Tino, c'era Natalino, è entrato Gianfranco, adesso già l'hai sentito in diretta, ha un problema di stazionari e quindi magari deve risolverlo. niente, adesso vedo un po', rilancio a Manuele. Manuele, ti ha salutato Giulio, non so se tu sei in ascolto e se lo hai sentito. No, negativo, forse si è spostato. Dai Manuele, ci sei sempre Giulio, ho visto che hai inserito l'Echo Soft e già va bene. Sì, ci sono sempre, mi dispiace, ma Manuele non so se ha risposto.